Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Presidente, ancora pochi giorni fa lei ha detto: se sbaglio sull'utilizzo del recovery fund, mandatemi a casa. No, signor Presidente, non è così. Se si fallisce il compito che abbiamo di fronte nei pochi mesi ormai che ci separano dalla precisa definizione delle misure da presentare in Europa, non va a casa solo lei. Andiamo a casa tutti. Perché in quel caso il danno per il Paese sarebbe immenso e lo pagheremmo tutti per anni a venire. Semplicemente non ce lo possiamo permettere. Questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è l'avvertimento, appello del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Oggi, durante l'assemblea annuale di Confindustria, si è rivolto in particolare al presidente del Consiglio Conte. L'avete sentito dicendo, ricordandovi che appunto qualche settimana fa, durante una visita nelle Marche, una scuola aveva detto: se falliamo sul recovery fund, mandateci a casa come governo. Ma il presidente di Confindustria ha detto: in realtà, se si fallisce sul prendere questi finanziamenti dell'Europa e spenderli nel modo giusto, in realtà va a casa tutta l'Italia, insomma, chiaramente a detrimento di tutto il paese. È importante questa assemblea annuale di oggi. C'era appunto presente il presidente del Consiglio Conte, c'era il ministro dello sviluppo economico Patuanelli. Poi ne parleremo nel corso della puntata, così come mi soffermerò naturalmente sulla svolta che ha avuto il duplice efferato omicidio dei due fidanzati di Lecce. È stato trovato l'assassino, reo confesso, e pare che appunto il movente fosse veramente agghiacciante, che fosse invidioso della loro felicità. Poi torneremo anche a parlare di calcio e Covid, con il rischio appunto che il campionato, in questo caso campionato maschile di Serie A, si possa fermare. Poi vedremo un po', perché Spadafora, ministro dello sport, in realtà avrebbe per il momento smentito. Per i vostri commenti, prima di iniziare con la sintesi della giornata, pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666, poi come al solito gli approfondimenti dei temi, alcuni che vi ho già enunciato con gli ospiti. L'assemblea annuale di Confindustria: serve un nuovo grande patto per l'Italia, dice il presidente Bonomi, avverte, e sul recovery fund vietato fallire. Conte assicura: uniti nella sfida per la ripartenza. Coronavirus: i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore sono 1648, i morti sono 24. E la cancelliera Merkel loda il nostro paese per il contenimento della pandemia. Il comitato tecnico scientifico intanto dà il via libera ai test rapidi per lo screening nelle scuole. Primo caso di influenza intanto a Parma. Svolta nell'omicidio dei due fidanzati di Lecce. In manette un ex coinquilino della giovane, reo confesso, aveva preparato il delitto nei minimi particolari, invidioso della loro felicità. Stati Uniti, tra poche ore il primo atteso faccia a faccia televisivo tra il presidente Trump e il candidato democratico alle presidenziali di novembre, Joe Biden. Calcio e casi di positività al Genoa mettono a rischio il calendario della Serie A. Partiamo quindi dall'assemblea annuale di Confindustria. Dalle imprese arrivano le richieste al governo per far ripartire l'economia. Una ripartenza, avverte il presidente del Consiglio Conte, che può avvenire solo se tutti contribuiscono alla sfida della ripartenza. Il presidente degli industriali Bonomi, alla fine dell'assemblea, commenta: dal governo un'apertura molto forte che non avevamo registrato fino ad oggi. Il governo scriva un nuovo grande patto per l'Italia dopo 25 anni di stasi, dice il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Bisogna puntare su una nuova produttività. Per uscire dalle secche della crisi innescata dall'emergenza Covid, secondo il numero uno degli industriali, è necessario usare tutte le risorse disponibili, anche quelle del meccanismo europeo di stabilità destinate a potenziare la sanità. E sul recovery fund non si può fallire perché, dice Bonomi rivolgendosi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in platea, andremo tutti a casa. Presidente, ancora pochi giorni fa lei ha detto: se sbaglio sull'utilizzo del recovery fund, mandatemi a casa. No, signor Presidente, non è così. Se si fallisce il compito che abbiamo di fronte nei pochi mesi ormai che ci separano dalla precisa definizione delle misure da presentare in Europa, non va a casa solo lei. Andiamo a casa tutti. perché in quel caso il danno per il Paese sarebbe immenso e lo pagheremmo tutti per anni a venire. Semplicemente non ce lo possiamo permettere. Servono scelte per il futuro dell'Italia, osserva Bonomi. Per questo bisogna riformare gli ammortizzatori sociali e smontare la parte del reddito di cittadinanza non destinata al contrasto delle povertà. E sul fronte pensioni, il superamento di quota 100 non deve pesare sui giovani. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi, naturalmente, nel corso della puntata torniamo sull'assemblea di Confindustria di oggi. Adesso il coronavirus, per quanto riguarda il mondo, Israele supera gli Stati Uniti per rapporto tra morti e abitanti. E il primo ministro israeliano Netanyahu avverte che il lockdown potrebbe durare più di un mese. Da noi invece contagi per il momento sotto controllo e all'Italia arriva anche l'elogio della cancelliera tedesca Merkel. La Germania riconosce la buona gestione del virus nel nostro paese. Angela Merkel ha infatti sconsigliato di affrontare i viaggi all'estero in zone a rischio, indicando però l'Italia come una meta possibile perché, ha detto, lì si agisce con grandissima cautela. Non va allo stesso modo nel Regno Unito, dove nelle ultime 24 ore c'è stato un nuovo picco, oltre 7.100 i nuovi casi, 71 i morti. In Italia i nuovi contagi sono 1.648, circa 150 in più dei precedenti, ma a fronte di 40.000 tamponi in più. Sopra quota 200 Lazio e Lombardia, ma subire il maggior numero di contagi, 286, è però sempre la Campania, dove sono scattate le misure annunciate dal governatore De Luca per contenere contagi e movida, provvedimenti restrittivi anche a Bologna, dove il prossimo weekend in centro sarà obbligatoria la mascherina anche all'aperto. Intanto a Parma si è registrato il primo caso di influenza stagionale identificato in un bambino di 9 mesi. Sui timori che non arrivino dosi di vaccino antinfluenzale sufficienti è intervenuto Walter Ricciardi dell'OMS. Non potremo vaccinare tutti, ha detto, ma una parte consistente sì, senz'altro, gli operatori sanitario, le persone fragili per età o malattia. Il tutto quando è stato dato il via libera dal CTS ai tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening, un provvedimento che potrebbe dare la svolta alla gestione dei casi sospetti nelle classi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è poco notizia di poco fa che è possibile utilizzare anche nelle scuole appunto i test antigenici rapidi attualmente in uso in porti e aeroporti, proprio lo indica il Ministero della Salute in una circolare diffusa poco fa in serata, specificando appunto che l'utilizzo di tali test, si legge, antigenici rapidi è in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di Covid-19. A questo proposito è arrivato il via libera da parte del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, alla richiesta pubblica di offerta per la fornitura di 5 milioni di test rapidi. Proprio nel momento in cui i tamponi finiscono sotto accusa nella gestione dei contagi nell'ambiente del calcio, ma di questo parleremo poi nel corso della puntata. E arriviamo al duplice omicidio di Lecce, una violenza senza pietà con colpi continui inferti, malgrado le invocazioni delle due vittime. È descritta questa definizione nel provvedimento di fermo a carico dello studente 21enne Antonio De Marco, che ha confessato l'omicidio di Daniele De Santis e di Leonora Manta. Per almeno 2 mesi lui e la ragazza sarebbero stati coinquilini, ma la convivenza non sarebbe stata facile. De Santis aveva deciso di non rinnovargli il contratto. Ho fatto una cavolata, ha detto il 21enne, li ho uccisi perché erano troppo felici e per questo mi è montata la rabbia. All'estero, Stati Uniti, tra poche ore il primo atteso faccia a faccia televisivo tra il presidente Trump e il candidato democratico alle presidenziali di novembre, Joe Biden. I viaggi di Radio 24. Ed ecco quindi la seconda puntata del viaggio di Radio 24 verso le elezioni americane a 35 giorni dal voto presidenziale oltreoceano. Oggi mettiamo a confronto le strategie economiche del repubblicano Donald Trump e del democratico Joe Biden. L'economia è stata anche quest'anno un tema cardine della campagna elettorale. It's the economy, stupid. Questa è la celebre definizione coniata 28 anni fa dagli strateghi di Bill Clinton e spesso proprio l'andamento dell'economia si è rivelato un fattore decisivo per aggiudicarsi l'elezione. Non sarà però l'unico quest'anno, considerata la variabile coronavirus che ha portato la crescita americana da un tasso positivo di oltre il 3% a una caduta del 5%, mentre i numeri della disoccupazione triplicavano. A long period of growth. We'll go back to having the greatest economy anywhere in the world. Donald Trump ribadisce il suo mantra del taglio delle tasse introdotto 3 anni fa, del quale hanno beneficiato soprattutto le grandi corporations. Joe Biden, al contrario, vuole eliminare gli sgravi fiscali sulle classi più ricche e sulle corporations per avere più risorse federali da investire. Biden ha però promesso di non incrementare le tasse sui redditi inferiori ai $400,000. Vago è Trump sul salario minimo a $15, mentre Biden lo sostiene. Allo stesso tempo, Biden si oppone ai tagli alla la sicurezza sociale, soprattutto in termini di coperture sanitarie, e anche qui Trump non ha una posizione chiara. Su una cosa Joe Biden è netto: nessuna interferenza politica deve essere consentita verso le scelte della Federal Reserve, mentre Donald Trump ha esercitato pressioni esplicite proprio sulla Fed affinché abbassasse i tassi di interesse. La Federal Reserve ad agosto ha pronosticato che l'andamento dell'economia statunitense dipenderà in modo significativo dalla pandemia, e al Congresso pochi giorni fa il presidente Powell ha ribadito che l'economia americana ha mostrato un miglioramento netto rispetto alla fase più acuta di recessione indotta dal coronavirus, ma il futuro resta estremamente incerto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E comunque, per il faccia a faccia imminente, il primo appunto tra Trump e Biden, ci collegheremo poi nel corso della puntata con gli Stati Uniti. Ora invece parliamo di Bielorussia. Anche il governo britannico si unisce alle sanzioni contro il presidente bielorusso Lukashenko e altre figure della sua cerchia di potere, incluso il figlio Viktor, in risposta alle contestate elezioni presidenziali recenti e alle repressioni della protesta di piazza delle opposizioni che ne contestano il risultato. Lo ha annunciato oggi, a margine di una visita a Seul, il ministro degli esteri di Boris Johnson, bollando quel voto come truccato. Le sanzioni britanniche sono state concordate con il governo del Canada. Di nuovo in Italia con la cronaca, l'inchiesta cosiddetta sulle spese pazze in Liguria. Sono stati condannati 19 degli ex consiglieri regionali. I più morigerati si erano limitati alla colazione al bar o a qualche pacchetto di caramelle, i più intraprendenti avevano prenotato vacanze in albergo con spa, per altri la lista degli acquisti comprendeva DVD, piante e bottiglie di vino. Spese private spacciate per spese istituzionali, di qui il rimborso. 19 ex consiglieri regionali della Liguria di vari partiti e movimenti, in carica dal 2005 al 2010, sono stati condannati dal Tribunale di Genova con l'accusa di peculato. Le pene variano dai 2 anni ai 13 mesi. Il tribunale ha disposto anche la confisca delle somme contestate. Si tratta di uno dei filoni della cosiddetta inchiesta sulle spese pazze. Un'altra tranche, nel maggio dell'anno scorso, aveva portato alla condanna, sempre per peculato, di altri 18 ex consiglieri regionali liguri della legislatura 2010-2015. Tra loro l'ex viceministro ai trasporti e alle infrastrutture Edoardo Rixi, finito nei guai per il suo ruolo, all'epoca dei fatti, di capogruppo della Lega. Era stato condannato a 3 anni e 4 mesi. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Per chiudere parliamo di bollette. Forte aumento delle tariffe di elettricità e gas a partire dal 1 ottobre. Le nuove tariffe per le famiglie aumenteranno del 15,6% per la luce e dell'11,4% per il gas. I rialzi, spiega l'ARERA, arrivano dopo un periodo di forti ribassi. I prezzi dell'energia tornano così sui livelli vicini a quelli pre-Covid. E con questo direi di chiudere questa prima parte della puntata, in modo che tra poco possiamo collegarci con i vari ospiti per i vostri messaggi. Pagina Facebook di Effetto Notte e poi i messaggi al 349-238-6666. Qualcuno già anticipa il tema che aprirò per primo tra poco e dice: buonasera, per favore potete spiegare una cosa? Quanto al delitto di Lecce, si è detto che durante l'aggressione si sentiva invocare il nome di Andrea, per quale motivo? Se appunto, dice, l'assassino si chiama Antonio, lo sveleremo tra poco. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Dopo avervi raccontato come sempre in sintesi le notizie principali della giornata, cominciamo invece con gli ospiti ad addentrarci in alcune di queste. C'era già un'ascoltatrice, Alessandra, che anticipava un po' l'argomento, e infatti il primo tema dal quale voglio cominciare di approfondimento è proprio la svolta nel duplice efferato omicidio di Lecce, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, il massacro di due fidanzati, Eleonora Manta e Daniele De Santis, che è avvenuto lo scorso 21 settembre nella città pugliese, appunto, Lecce. E oggi si è presa questa notizia che un 21enne, Antonio De Marco, che studia da infermiere, ha confessato questo duplice delitto. E il movente, secondo le parole che lui ha detto, insomma, se è quello, è davvero agghiacciante. Cioè, ha detto: li uccisi perché erano troppo felici e per questo mi è montata la rabbia. Quindi, insomma, si parla per il momento di un sentimento corrosivo, velenoso, qual è l'invidia, no? Un sentimento estremamente diffuso purtroppo, che però se continuamente alimentato da menti di persone particolarmente deliranti che si convincono che la felicità degli altri, le gratificazioni degli altri per quello che sono, per quello che fanno nella vita, toglie a loro qualcosa, a questo punto arrivano anche a questi atti criminali. Ma ne voglio parlare di questa vicenda con Erika Fiore, che è giornalista di Telerama, emittente salentina appunto della zona di Lecce. Ciao Erika, grazie della disponibilità. Buonasera, grazie a voi. Erika, allora quindi questa è la svolta. Gli inquirenti in un primo momento avevano parlato, anzi poi era stata smentita questa notizia, non so se era arrivata da loro, insomma una qualche anticipazione forse eccessiva nei giorni scorsi di un edicolante che si chiamava Andrea, poi tra poco capiremo anche perché la vittima Eleonora Manta, la ragazza, aveva invocato questo nome. C'è un'intervista della nostra collega, la faremo sentire tra pochi istanti. Comunque, insomma, è confermato che il 21enne fermato ha confessato, Erika. Assolutamente sì, la confessione di Antonio De Marco è arrivata esattamente alle prime luci dell'alba nel corso di un interrogatorio che è durato circa 2 ore. La prima cosa che ha detto è: da quanto tempo mi stavate pedinando? Questo ha chiesto agli inquirenti nel momento dell'arresto. Lui è stato raggiunto all'uscita dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove frequentava appunto gli studi da tirocinante di scienze infermieristiche. Non ha mai negato di essere il killer di Eleonora Manta e di Daniele De Santis, anzi ha ricostruito passo dopo passo sia la fase della preparazione che quella dell'azione. Poco o nulla invece ha detto sul movente, anche se durante l'interrogatorio ha pronunciato una frase chiaramente shock, perché ha detto testuali parole: erano troppo felici. Erika, vorrei far sentire, poi ci addentriamo ulteriormente nella ricostruzione di questa vicenda terribile, un'intervista che la nostra collega Raffaella Calandra ha fatto a Paolo Dembek, che è il comandante provinciale dei Carabinieri, che ha risposto, spiega perché il nome sentito dai vicini durante questa terribile aggressione era stato quello di Andrea. Sentiamo perché. Colpisce prima Daniele, dopodiché si scaglia sulla ragazza e muore prima la ragazza. Daniele nel frattempo tenta di allontanarsi sul pianerotto, in questo momento grida Andrea. Ecco, perché Andrea? Perché Andrea è l'inquilino del piano di sotto. Chiede aiuto. Esattamente. In questo momento grida Andrea e nel gridare, dopo poco aver gridato Andrea, viene ripetutamente colpito con una serie numerosa di fendenti. Ecco, questo è il motivo per cui appunto la povera ragazza aveva più volte detto il nome di Andrea, così lo chiedeva un'ascoltatrice. Erika, De Marco pare che avesse proprio programmato, proprio avesse pianificato questo duplice delitto, no? Anzi, aveva pensato addirittura, secondo quello che hanno detto gli inquirenti, di bloccarli dentro l'appartamento. Perché lui, spieghiamo questa cosa, Erika, lui aveva convissuto affittando una stanza dentro questo appartamento dove poi dovevano andare a vivere i due fidanzati che erano felici, stavano costruendo la loro vita e quindi volevano convivere? Esatto, in via Montello Daniele aveva affittato a questo studente la stanza, una stanza di casa sua, per cui principalmente erano Daniele ed Antonio a convivere, anche se già Eleonora faceva spola tra casa sua e casa di Daniele in attesa poi di trasferirsi definitivamente e avviare la convivenza. Proprio ai fini della convivenza poi ad Antonio non sarebbe stato rinnovato il contratto di affitto e da lì forse avrebbe avuto tutto origine, questo sempre stando a quanto riferito dagli inquirenti. Pare che su Facebook o su qualche social, insomma, avesse anche postato una frase tipo: la vendetta è un piatto che si serve freddo. Ecco, su questo ci andrei cauta, perché diciamo che nelle ultime ore è arrivata una smentita da quello che è il reale titolare di quel profilo Facebook. Questo è stato forse frutto di un equivoco, anche se è riportato nelle carte. Quindi ecco, io su questo mi sentirei di andare piuttosto cauta. Non sappiamo esattamente se questa frase deriverebbe dal reale profilo di Antonio De Marco. Questo andrebbe chiarito nelle prossime ore. Erika, invece, sempre secondo quanto hanno fatto trapelare gli inquirenti, è vero che lui in realtà aveva programmato di, avendo le chiavi sempre dell'appartamento, dove appunto era stato coinquilino, si era fatto una copia, aveva programmato di entrare nell'appartamento, di legarli e di torturarli prima di ucciderli? Sì, doveva essere una vera e propria messa in scena dimostrativa anche per la collettività, ha detto il procuratore Leonardo Leone De Castris, citando testualmente le sue parole, lo riferisco, nel senso che lui aveva portato con sé delle fascette, dette fascette da elettricista, per cui probabilmente li voleva così mobilizzare, e poi avrebbe voluto mettere in scena una vera e propria lenta tortura. Per cui poi il piano non è andato in porto perché forse non aveva fatto i conti con il fatto che avrebbero chiesto aiuto e che comunque si sarebbero ribellati a questa aggressione, anche se sono stati colti di sorpresa, come hai appena detto tu, proprio perché lui ha aperto tranquillamente la porta di casa possedendo una copia delle chiavi e dunque ha potuto giocare su questo effetto sorpresa. Poi però c'è stata una colluttazione, quindi i piani, diciamo, non tutto è andato per come era stato programmato. Anche le telecamere che l'hanno ripreso, perché lui pare che avesse perso anche scappando un foglietto dove si raccomandava a se stesso di evitare le telecamere che c'erano nella zona, però in realtà alcune di queste lo hanno ripreso. Esatto, lui si era segnato proprio un tragitto, aveva scritto delle frasi addirittura utilizzando l'imperativo, la prima persona, scendo alla fermata e poi attraversi e riattraversi in diagonale, attento di fronte a passare velocemente sul muro a sinistra, aveva calcolato anche l'angolatura di ripresa delle telecamere. In realtà non lo ha fatto abbastanza bene perché poi proprio delle telecamere private lo hanno beccato all'altezza della sua abitazione, quella in cui viveva attualmente con due coinquilini in via Fleming, e lì viene proprio nitidamente ripreso con i pantaloni ancora sporchi di sangue e il famoso zainetto chiaro ancora in spalla. Senti, poi era riuscito a disfarsi dell'arma che pare che fosse un grosso coltello da caccia, però fuggendo gli era praticamente caduto il fodero sul luogo del delitto? Sì, anche questa è una delle tracce che ha lasciato, oltre a dei frammenti dei guanti di lattice che durante la colluttazione si sono chiaramente strappati, anche questo passaggio ha inciso notevolmente nel procedimento che poi ha portato a risalire alla sua persona. Poi gli inquirenti scrivono anche che avrebbe agito con spietatezza e totale assenza di ogni sentimento di pietà per mero compiacimento sadico. Sì, di fatto quello che è stato tracciato fino ad ora è il profilo di un perfetto killer, mi spingo a dirlo perché era una persona insospettabile. Noi abbiamo anche potuto parlare con alcuni colleghi del Vito Fazzi che lo descrivevano come un ragazzo timido, introverso, a modo, un ragazzo addirittura che bisognava invitarlo più volte a prendere il caffè alla macchinetta, tanto stava sulle sue, tanto era un ragazzo appunto introverso, anche con delle difficoltà evidenti a socializzare. Quindi questo dovrebbe essere anche un aspetto cruciale dello studio del suo carattere, che tanto potrebbe dirci sul movente, che ancora è chiaro a metà. Erika, fra l'altro nel suo paese, Casarano, dove abitano ancora i genitori, anche lì lo descrivono come un ragazzo riservato, ma come un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo, per cui questa macabra ritualità che è stata descritta dagli inquirenti è assolutamente inspiegabile. Ci sono tantissime persone sotto shock, non stiamo parlando di familiari o amici di famiglia, il che sarebbe anche plausibile e comprensibile, stiamo parlando di colleghi, di tirocinanti, dei tutor responsabili dei tirocinanti, tutte persone che comunque avevano a che fare con lui quotidianamente. Basti pensare che venerdì sera è andato ad una cena di compleanno di un'infermiera del nosocomio Le Cese, presso cui appunto effettuava questo stage, e ha ballato tranquillamente in pista. In ospedale, nei giorni successivi alla tragedia, non si parlava d'altro e lui ascoltava tutte le opinioni dei colleghi, tutte le opinioni degli infermieri, medici, OSS che si confrontavano davanti ad un caffè, senza mai esprimere nulla, senza mai lasciar trapelare nulla. Un ragazzo veramente sereno e, come dire, insospettabile. Questa è la parola giusta. Tu hai parlato appunto della festa alla quale era andato anche proprio il giorno dei funerali dei due poveri ragazzi. Visto sui social e anche sui media online una foto di lui molto sorridente, tra l'altro, questa festa, no Erika? Quindi certo. Veramente sconvolgente. C'è anche un video dove lui si lancerebbe, questo non è in nostro possesso, ma ce lo hanno raccontato dei testimoni diretti in uno di quei trenini danzanti delle feste, diciamo, e per cui ha ballato e si è comportato tranquillamente, così come ha posato in diversi scatti sorridente. nulla lasciava presagire tutto questo, anzi nel momento in cui è stato prelevato dal Vito Fazzi in realtà chi era presente non ha capito nulla. Poi anche su questo gli inquirenti hanno detto che non è scoppiato in una grassa risata, in realtà chi ha assistito lo ha visto proprio prima cadere per terra e poi mettersi a ridere, anche questo ha scioccato i presenti. Quando insomma sono arrivati i carabinieri. Certo. C'è un ascoltatore fra i tanti che dice: sarà un caso che specie al sud l'invidia sfoci in rabbia omicida? Ricordiamoci dell'omicidio di quella ragazza uccisa dalla cugina. Allora, non facciamo del razzismo, che non c'entra proprio nulla, anzi, perché questa cosa in realtà ricorda più qualcosa che è successo a Torino, mi pare, 1 o 2 anni fa, vicino ai Murazzi, di un ragazzo che è stato ucciso da un altro perché l'aveva incontrato, aveva trovato troppo sorridente, troppo felice e l'aveva accoltellato. Quindi non c'entra niente sud-nord, è l'invidia che è un sentimento, se è stato anche il movente, se è vero che è stato il movente anche in questo caso di un veramente di un sentimento velenoso, estremamente velenoso, che in casi particolari, estremi, può poi sfociare in questo modo. Erika Fiore, io ti ringrazio moltissimo, ricordo, giornalista di Telerama, emittente salentina. Grazie a voi. Se ci saranno degli sviluppi, insomma, ti disturberò ancora. Comunque grazie mille ancora e buon lavoro, Erika. Resto a disposizione, buon lavoro a voi e buona serata. Grazie mille. Allora, intanto qui ci fermiamo per la solita piccola pausa di riflessione per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure per il WhatsApp, sempre il 349-238-6666. Ci sentiamo a momento. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte tutti i giorni a fine giornata con me, Roberta Giordano, siete sicuri, siete sicure di sapere tutto quello che è più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero e di aver compreso anche le notizie principali. Abbiamo appena parlato con una giornalista di una TV salentina che ci ha raccontato molto bene, insomma, gli sviluppi di questa terribile vicenda di Lecce, del duplice omicidio dei due fidanzati trucidati da un 21enne, Antonio De Marco, che ha detto, secondo quanto hanno riferito gli inquirenti, che il movente è stato l'averli visti troppo felici. Lui avrebbe convissuto per qualche tempo affittando una stanza nell'appartamento di Daniele De Santis e poi avrebbe pianificato, l'avete sentito, insomma, in modo davvero agghiacciante questo duplice omicidio. Li voleva addirittura prima torturare e poi uccidere. Adesso passiamo ad altro, anche se vedo molti vostri messaggi su questo argomento. Per esempio dice questo ascoltatore, vediamo, anzi è Vanda dice: vorrei sapere come vengono effettuati i test psicoattitudinali prima dell'accesso al corso di laurea di infermieristica. Anche l'omicidio Vannoli ad Ostia vede omissione di soccorso con uno studente al terzo anno. Vabbè, adesso non è che ci sono delle categorie particolari, anche perché naturalmente sarebbe più facile, diciamo così, tenerli d'occhio, non ci sono delle categorie. E poi ci sono persone che probabilmente sfuggono anche a test di questo tipo, e non lo so se in quel caso, se studiando all'università si fanno almeno all'inizio questi, per esempio per quanto riguarda scienze infermieristiche, si fanno test psicoattitudinali di questo tipo. Sinceramente non lo so, e comunque ripeto, non è una questione di categorie. E poi invece un altro ascoltatore dice: cara Roberta, purtroppo il profilo di questo assassino, vediamo se riesco a vedere fino a fondo, da come l'avete descritto, è quello di un perfetto sociopatico, difficile trovare motivazioni logiche se non quelle legate alla prima infanzia, probabilmente, dice Alvise. Insomma, si fanno ipotesi, poi vedremo nei prossimi giorni se ulteriormente da queste indagini, dagli interrogatori, insomma, nei confronti dell'assassino reo confesso, verranno fuori altri motivi, altri retroscena di questa storia. Presidente, ancora pochi giorni fa lei ha detto: se sbaglio sull'utilizzo del recovery fund, mandatemi a casa. No, signor Presidente, non è così. Se si fallisce il compito che abbiamo di fronte nei pochi mesi ormai che ci separano dalla precisa definizione delle misure da presentare in Europa, non va a casa solo lei. Andiamo a casa tutti. Perché in quel caso il danno per il Paese sarebbe immenso e lo pagheremmo tutti per anni a venire. Semplicemente non ce lo possiamo permettere. Questa convinzione ha ispirato ogni nostra posizione nei mesi del Covid. È tempo di azione comune, oppure non sarà un'azione efficace. Avete sentito, è stato l'appello questo del presidente di Industriali Carlo Bonomi nei confronti del governo, in particolare riferito al presidente del Consiglio Conte. Questo è stato uno dei passaggi più significativi, più importanti all'assemblea annuale oggi di Confindustria. Bonomi, presidente della Confindustria, dell'Associazione degli Industriali, ha detto che serve un nuovo grande patto per l'Italia, soprattutto serve avere visione, avere una rotta chiara. Sentiamo. Serve una rotta chiara per dare significato complessivo alle misure e per tracciare la rotta serve un approdo. Il futuro, quindi, anche quello prossimo, si può subire, attraversare o invece progettare. E occorre farlo da parte della politica e delle istituzioni, coinvolgendo ogni grande soggetto della vita economica e sociale del nostro Paese, non solo nell'ascolto, ma nella definizione stessa delle priorità. E poi, naturalmente, Bonomi parla di un compito immane, che è quello appunto di avere la visione giusta, di avere una rotta chiara e naturalmente di procedere con un piano per l'Italia, finalmente per la sua ripresa dopo questa grave crisi economica e sanitaria, no, dovuta al Covid. Sentiamo anche questo passaggio. Il compito che vi spetta è immane, nessuno può sottovalutarne le difficoltà. A maggior ragione in un'Italia reduce da 25 anni di bassa crescita e bassissima produttività. Ma proprio per questo serve definire un quadro netto e chiaro di poche decise priorità su cui orientare la crescita del Paese, strumenti e fini della sua politica industriale ed economica. E ancora Bonomi, rivolto appunto al Presidente del Consiglio Conte e a tutto il governo, c'era presente anche Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, ha detto che il Paese non può diventare un sussidistan, cioè uno Stato che dà soltanto sussidi. Sentiamo anche questo audio. Aderire alle direttive europee significa ancora due cose. La prima è scegliere la via giusta per sostenere imprese e settori più colpiti. E ovviamente noi parliamo per l'industria. Nei mesi del lockdown il governo ha assunto misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di rifinanziamento al fondo PMI, che sono state molto importanti e hanno funzionato molto bene. Ma i sussidi non sono per sempre. Né possiamo o vogliamo diventare un sussidistan, come è stato recentemente scritto. Già l'estate doveva essere un momento di altre scelte, scelte su cui indirizzare più incisivamente il futuro. E il futuro non può essere che letto in una chiave di filiere, possibilmente di dimensione europea, che disegnino una geografia molto più ampia delle singole imprese di settore. Su queste filiere dell'industria italiana occorre uno sforzo particolare. Ma voglio essere chiaro, non sono i sussidi né ulteriore indebitamento, sia pur con garanzia, quello che proponiamo. Serve tutt'altro. L'esempio è quanto avvenuto nell'emergenza pandemica. La struttura produttiva italiana non era pronta a maxi produzioni di dispositivi sanitari, ma lo Stato e il Governo hanno creato le condizioni di incentivo tali da rendere possibile un balzo di quelle produzioni perché strategiche. Per le filiere che rischiano perdite a doppia cifra, gli strumenti dovrebbero essere analoghi. Non sussidi, ma condizioni regolatorie di mercato tali da tornare ad accrescere produzione e occupazione. E Conte, poi rivolto a Bonomi, ha detto: abbiamo quindi una grandissima sfida, non abbiamo alternative, dobbiamo vincerla e lo possiamo fare solo tutti insieme. Con lo stesso spirito di unità, con rinnovato senso di comunità, quel senso che ci ha consentito come Paese di affrontare a testa alta la minaccia della pandemia, dobbiamo ora contribuire. Certo, tutti insieme, a vincere la sfida della ripartenza. È una sfida questa che in verità è lì, ci attende da molti anni, e mai come oggi, in ragione della profonda crisi, si pone di fronte alla politica il dovere di affrontarla con coraggio. Però questa volta ce la possiamo fare, perché questa pandemia ci ha reso anche tutti più forti e anche più consapevoli. E poi Conte ha naturalmente parlato del negoziato con l'Europa che ha portato avanti l'Italia per ottenere fondi, e l'Italia ottiene, almeno sulla carta, ma insomma comunque sono già stati decisi la quantità più cospicua di questi fondi da parte dell'Europa. Gli esiti di questo negoziato europeo dimostrano che l'Italia ha saputo recuperare una forte leadership europea e internazionale, grazie alla quale abbiamo affermato un principio molto semplice. L'Europa e l'Italia potranno crescere soltanto se saranno in grado di cambiare insieme, contemporaneamente. Presente all'assemblea di Confindustria, oggi dove avete sentito appunto parlare il presidente Bonomi e il presidente del Consiglio Conte, c'era anche il ministro per lo sviluppo economico Patuanelli, che ha detto che bisogna accompagnare nel loro percorso le imprese. Io penso che lo Stato debba accompagnare l'impresa verso il nuovo mondo che si sta delineando, accollandosi anche alcuni rischi e non lasciando soli gli imprenditori nell'affrontare i cambiamenti epocali che ci attendono. Questo non vuol dire sedersi nei consigli di amministrazione delle aziende, vuol dire uno Stato che è a fianco di chi fa impresa, che ascolta i tessuti produttivi e fa un pezzo di strada con loro. E Conte ha parlato anche di una nuova società che si deve organizzare in un modo diverso, ripensarsi insomma nella società post-Covid. Ragioniamo di una nuova società, la nuova società post-Covid, dove la sostenibilità sociale, ambientale dei processi produttivi non può essere più pensata come un vincolo allo sviluppo, bensì come sua premessa imprescindibile. E per chiudere, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha detto poi a fine di questa assemblea, di questo incontro, che nelle parole sia di Conte che di Patuanelli, del ministro Patuanelli, ha trovato disponibilità e un'apertura molto forte. Io ho detto alcune cose, ho specificato alcuni temi. Negli interventi sia del ministro Patuanelli sia del presidente Conte c'è stata un'apertura su questi temi. Un'apertura molto forte che non avevamo ancora registrato fino ad oggi. Noi cogliamo ovviamente con piacere questa apertura. Abbiamo proposto questo famoso patto per l'Italia, entrambi il ministro e il primo ministro hanno dato disponibilità. Lo vedremo nei fatti adesso, ovviamente, di qui inizia un percorso. Inizia un percorso. Bene, qui allora chiudiamo anche questo capitolo di Effetto Notte. C'è la viabilità per i vostri messaggi, sempre 349-238-6666, il numero per i WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Arrivato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, alle 21 ora americana, quindi saranno le 3 di notte praticamente da noi in Italia, a Cleveland, in Ohio, si terrà il cruciale evento della politica americana, cioè il primo faccia a faccia televisivo tra il presidente in carica Donald Trump e il suo candidato democratico alle presidenziali del prossimo 3 novembre, Joe Biden, ex vicepresidente di Obama. Ed è per questo che mi collego immediatamente con il nostro Riccardo Barlam dagli Stati Uniti. Riccardo. Ciao Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Quindi sì, il primo questo di 3 dibattiti TV, no? Che faranno da qui al 3 novembre. Sì, il primo di 3 dibattiti TV, sono 90 minuti divisi, diciamo, in linguaggio pugilistico in 6 round, ogni round di 15 minuti su un argomento. Quindi questa volta ci sarà un moderatore che farà le domande, altre volte le altre due, in una delle due ci sarà il pubblico. Stasera sarà Chris Wallace, che è un giornalista di destra di Fox News, e i sei capitoli, diciamo, di questa serata, i sei temi sono le dichiarazioni dei redditi dei due candidati, che è un tema caldissimo in queste ore, la successione alla Corte Suprema della appena decisa da Trump, di questa nuova giudice conservatrice al posto della defunta Ruth, vi ricorderete, Ginsburg, che era una paladina da sempre dei diritti civili, mentre esatto. Quella scelta adesso da Trump è una conservatrice antiabortista, tra l'altro la defunta giudice, che era appunto era ormai un mito per l'America democratica, diciamo, aveva chiesto che il suo successore o successora fosse nominato quando si fosse insediato il nuovo presidente. Invece Trump ha voluto accelerare, no, su questa nomina. Sì, addirittura prima del funerale lui aveva già fatto questa cerimonia per presentare questa nuova giudice. Adesso la cosa dovrà essere ratificata dal Senato, dovrebbe essere abbastanza scontato. Poi gli altri argomenti sono il Covid-19, 205.000 morti negli Stati Uniti oggi, e il virus che anche qui sta riprendendo forza, soprattutto la crisi economica, il quarto argomento, poi le proteste razziali e le violenze nelle città, e lo svolgimento corretto delle prossime elezioni americane, che è sempre stata una cosa, come dire, scontata. Quest'anno non lo è, perché... Lo spieghiamo perché, Riccardo, perché ha una domanda, mi sembra, di un giornalista a Trump, che gli ha detto: ma senta, ma se lei dovesse perdere le elezioni, la transizione poi da lei al nuovo presidente sarebbe tranquilla? E lui cosa ha detto? Vediamo, ha detto una cosa del genere? No, ha detto: non è sicuro, non può garantire che ci sarà una transizione pacifica. Lui non vuole mollare, ovviamente, anche se dovesse perdere, è possibile che accada il voto popolare, ci saranno una miriade di ricorsi, perché quest'anno tanti stati, ogni stato ha le sue leggi elettorali, no? Tanti stati hanno cambiato le normative perché nell'anno del Covid hanno ampliato il voto postale. E Trump dice che ci saranno delle frodi, che insomma i voti postali, gran parte dei democratici voteranno con la posta, sono anziani, sono persone che non andranno al seggio per paura del Covid, e questi voti postali arriveranno qualche giorno dopo il 3 novembre, che è il giorno in cui si voterà. Quindi il 3 novembre lo scenario è questo: il 3 novembre, la notte del 3 novembre, probabilmente ci saranno tutti i stati rossi, colore repubblicano, gran parte sulla mappa degli Stati Uniti. Dopo qualche giorno il risultato sarà, con quando arriveranno quelle schede dei voti popolari, sarà probabilmente tutto blu, la maggior parte sarà a favore di Biden, e quindi Trump, quando ha fatto la convention, il discorso della convention repubblicana alla Casa Bianca, prima volta nella storia, lui ha detto questa frase che veramente fa spavento: ha detto, noi siamo qui dentro, gli altri sono fuori, come dire, io non mi muovo da qui. E lui ha questo passato di quello che è successo in questi giorni, dopo questa inchiesta del New York Times, ad esempio, sulle tasse non pagate da Trump. Lui per quanti anni? Per 10 anni non avrebbe pagato le tasse, anche se lui ha detto che sono fake news. No, non sono fake news, perché le dichiarazioni dei redditi sono i dati ufficiali. Lui, c'è un meccanismo che va spiegato: le tasse sono quelle federali e consentono agli imprenditori immobiliari, se hanno spese, se hanno per investono quello che guadagnano, di azzerare l'imponibile. Lui ha sempre fatto così. La cosa che è successa è che lui, quello, ci sono anche dei contenziosi fiscali aperti, sembra che abbia gonfiato le perdite per abbassare l'imponibile. Addirittura nei primi 2 anni della sua presidenza lui ha pagato $250 all'anno per un anno di tasse. Allora, gli immigrati regolari che lavorano qui nelle pizzerie a settimane vengono pagati, pagano più tasse di Trump, è la cosa che è stata notata. La cosa più preoccupante non è tanto che non abbia pagato le tasse, perché si sapeva, e molta dell'America apprezza Trump anche perché è così, diciamo. Questa cosa colpisce gli americani, oppure pensano che ha fatto bene? Questa idea del furbo, che io se posso ti frego, che insomma purtroppo è così, ma tanti americani, è talmente radicalizzata la posizione del paese divisa in due, che continuano a sostenere. Oggi parlavo con un amico che voterà Trump e lui mi diceva: guarda, io non mi importa se anche fa questo, non ti viene neanche il dubbio di dire: ma questo ti rappresenterà per i prossimi 4 anni. La cosa interessante è che lui adesso, Trump, ha più di $400 milioni di debiti personali con delle banche, tra cui anche una banca europea, che dovrà restituire nei prossimi 4 anni. Quindi voglio dire, se lui dovesse andare alla Casa Bianca, comunque ha questo spada di Damocle, questo piccolo... che nel momento in cui uno deve rappresentare tutti gli americani, qualche dubbio sul fatto che lui non abbia degli interessi personali a prendere delle decisioni viene. Comunque, per il dibattito di questa sera, per riassumerla, è un appuntamento importante, ma non così importante negli ultimi anni per decidere chi andrà alla Casa Bianca, perché per esempio Hillary nel 2016 vinse tutti e 3 i dibattiti, poi è andata a finire. Però poi è andata a finire come è andata a finire. Beh, comunque ci sarà Trump modo di aggiornarci. Sì, Trump parte favorito. Perché anche il carisma di Biden, diciamo, un pochino così, un po', diciamo, non sbiadito. È tanto bravo davanti alla telecamera, però Biden, visto che parte, diciamo, più debole nella comunicazione, non può che far meglio, quindi parte un po' più debole, quindi vedremo. Bene, vedremo, sarà molto interessante in ogni caso, poi domani magari ci racconteremo. Grazie Riccardo Barlama, dagli Stati Uniti. Ciao Riccardo, buon lavoro e buon divertimento anche. Invece con il nostro Dario Ricci, ciao caro Dario. Eccoci, ciao ritorniamo Roberta. Sulla notizia e sugli sviluppi della notizia di ieri, mentre eravamo in diretta, ti ricordi, abbiamo detto appunto dei 14 giocatori del Genoa che sono positivi e quindi adesso Bassetti, il virologo, anzi l'infettivologo del primario dell'ospedale San Matteo San Martino di Genova, che ha detto che i tamponi, questo dimostra che i tamponi sono un fallimento, poi qualcun altro invece, Crisanti, il virologo del Veneto, che ha detto che allora i giocatori devono stare in quarantena perché altrimenti si diffonde continuamente il virus. Quindi in che situazione siamo? Spadafora, vogliamo sentire Spadafora, ministro dello sport, a chi gli ha chiesto ma allora si ferma il campionato di Serie A maschile, ha detto di no, vediamo, sentiamo. È sicuramente una tegola a ciel sereno, anche perché il protocollo della FIGC è un protocollo molto serio, molto articolato, e proprio per questo io credo che adesso, diciamo, prese tutte le misure di cautela per il Genoa, poi vediamo adesso i risultati del Napoli, ma credo che il campionato sia ancora in grado di potersi svolgere nel modo previsto. L'inizio del campionato per noi diventa purtroppo anche una sperimentazione, perché stiamo tutti sperimentando qualcosa di nuovo, modalità nuove per portare avanti quella normalità tanto auspicata, però ovviamente con tutte le cautele necessarie. Prego Dario, quindi. Beh, parola improntata al buon senso, palla che passa al Consiglio straordinario della Lega Calcio in programma domani, molto probabile a questo punto il rinvio di Genoa-Torino in programma sabato pomeriggio alle 18 al Ferraris di Genova, e soprattutto si è anche in attesa dei tamponi che a Napoli hanno effettuato a sprombattuto, perché chiaramente, come abbiamo detto più volte, domenica c'era stata proprio Napoli-Genoa e quindi giocatori del Napoli particolarmente preoccupati, visto che poi tra l'altro domenica sera hanno in calendario la sfida importantissima con la Juventus. Il paradosso di questa vicenda, se vogliamo trovare un motivo anche per mezzo sorriso in una vicenda comunque difficile, è che insomma, mentre c'è questa preoccupazione nella squadra, fortunatamente il presidente De Laurentiis è risultato doppiamente negativo e quindi guarito dal Covid, insomma almeno lui può indicare una strada, ecco. Speriamo, insomma, quante difficoltà, quanti problemi, quante cose, che guai ci sta creando questo coronavirus in generale. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao Dario, vi riaggiorno brevemente, Ratta con la Folgore alle 22. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it